A bordo campo di Dario Ricci. 4 anni fa il trionfo azzurro di Berlino, preceduto da quello che era stato la bufera di Calciopoli, e anche in questi mesi insomma abbiamo visto un fuoco che è tutt'altro che spento. Ebbene, vittime di Calciopoli, dirigenti, calciatori, staremo a vedere, scudetti assegnati, revocati, insomma la soluzione finale della vicenda sembra ancora lontana, ma tra le vittime di Calciopoli possiamo, a ragione, anche annoverare una ricerca importante, significativa, che era stata portata avanti e che anzi in realtà in qualche modo è continuato ad essere stata sviluppata da alcuni ricercatori italiani ed è proprio legata al mondo del calcio. E allora per questo salutiamo qui a bordo campo il professor Arcangelo Di Stante, direttore del ISIA di Bari, l'Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l'Automazione. Benvenuto professor Di Stante a bordo campo. Salve. Allora professore, perché la chiamiamo in causa? Perché per farci capire dai nostri ascoltatori, diciamo subito la parolina che svela l'arcano: gol, non gol. Beh, se ne è discusso tanto in questi anni, no? Sistemi elettronici ad alta precisione applicati al calcio per capire queste situazioni dubbie, per capire il fuorigioco, per capire meglio quando effettivamente in area di rigore c'è un contatto tra giocatori e quindi quando effettivamente bisogna fischiare un calcio di rigore, insomma il supporto tecnologico all'arbitro. Ebbene, 4 anni fa il suo istituto a trovare una soluzione a questi rebus che dividono i tifosi ancora oggi tutte le lunedì mattina al bar, c'era andato davvero vicino, vero professore? Sì, noi come Consiglio Nazionale delle Ricerche ci hanno commissionato uno studio di fattibilità e poi la realizzazione di alcuni prototipi che andavano proprio nella direzione di studiare la possibilità di utilizzare tecnologie innovative per aiutare, diciamo, la terna arbitrale durante eventi sportivi in modo neutrale, in modo proprio nel senso dell'aiuto, diciamo, dell'arbitro, lasciando poi all'arbitro ovviamente qualunque decisione finale. Ecco, tra l'altro il vostro sistema aveva avuto anche un apprezzamento generale, no? Addirittura l'avevate presentato ufficialmente nel marzo del 2006 proprio a Lucerna, agli occhi del presidentissimo della FIFA, Sepp Blatter. Sì, in effetti noi diciamo, abbiamo iniziato le attività di studio del gol non gol sollecitati dal presidente dell'Udinese Pozzo, poi successivamente queste tecnologie sono state, diciamo, indicate alla federazione come possibili, diciamo, tecnologie da utilizzare in aiuto dell'arbitro, e la federazione italiana ha sensibilizzato la FIFA portando la conoscenza di questa iniziativa che non riguardava soltanto lo studio del gol non gol ma anche esplorare tecnologie innovative per rilevare in modo scientifico eventualmente l'evento di fuorigioco, ma anche di studiare gli eventi che accadono nell'area di rigore. Per sintetizzare, ci siamo trovati, no, nella situazione come quella delle barzellette: c'è un italiano, un francese, un tedesco. In questo caso c'erano un progetto italiano, francese e tedesco per risolvere questi dilemmi del gioco del calcio, e sembrava proprio che gli italiani, seppur con la concorrenza agguerrita dei tedeschi, potessero averla meglio. Sì, in effetti poi presentammo la nostra soluzione tecnologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Lucerna, basata la nostra tecnologia su macchine di visione intelligenti. Altri presentavano, mi ricordo che c'era una soluzione francese, presentavano una sorta di moviola che non veniva considerata accettabile, e un'altra soluzione, quella tedesca, che riguardava il chip nel pallone. Noi la presentammo in quella riunione, l'IFAB decise di sperimentare due soluzioni, quella italiana del CNR con la Federazione Italiana Gioco Calcio e quella tedesca basata sul chip nel pallone. Insomma, la sperimentazione del chip nel pallone, di cui tanto si è parlato, in realtà si è dimostrata sostanzialmente inefficace, no? Perché questo chip non dava dei risultati affidabili, era un sistema non verificabile e spesso il margine d'errore era intorno al mezzo metro, che nel calcio è un'enormità. Invece, ci spieghi sinteticamente come era costituito, com'è costituito il vostro prototipo e quali risultati dà? Il nostro prototipo, a differenza di tutti gli altri, ci era stato imposto di studiare una tecnologia non invasiva, quindi niente elementi elettronici o sensori nel pallone, niente elementi sensoriali o apparati, dispositivi dentro, diciamo, i pali e le porte, né vicino, ma sistemi che potessero rilevare a distanza, quindi senza avere nessun impatto sullo svolgimento della gara, l'evento gol non gol. E infatti noi abbiamo sviluppato 4 macchine intelligenti, come se fossero 4 persone che stanno sugli spalti, che traguardano esattamente come fa l'assistente degli arbitri quando si mette nella posizione del corner, col vantaggio di vedere in due in simultanea da punti opposti la porta e quindi decidere quando il pallone attraversa totalmente lo specchio della porta o meno. Certo, perché poi il sistema, semplificando, mi consenta da profano, è costituito da una serie di telecamere, chiaramente di alta precisione, che inquadrano contemporaneamente la situazione di gioco, in questo caso anche il gol non gol, il numero variabile a seconda delle situazioni, ma avendo queste immagini simultanee poi lette anche dal sistema centrale, si ha la possibilità di osservare in contemporanea quanto accade sull'intero perimetro di gioco, no? Sì, dice bene, esattamente queste macchine di visioni intelligenti che abbiamo utilizzato fanno esattamente quello che fanno gli umani, con il vantaggio che queste telecamere sono sincronizzate, quindi al tempo T vedono la stessa cosa e ognuna di loro opera in modo dipendente a vedere esattamente quando la palla entra nello specchio del campo di gioco e fanno l'inseguimento del pallone fino a quando vedono e misurano se l'ha veramente attraversato il piano verticale della porta o meno. Però non basta, perché ognuno di questi opera in modo indipendente e poi c'è un supervisore che piglia la decisione finale, quindi immaginate un'altra agente, un'altra entità virtuale che elabora in simultanea i risultati dei due, chiamiamoli così, dei due segnalini elettronici, che ripeto per noi sono delle macchine di visione che replicano esattamente quello che farebbe l'umano dal punto di vista osservativo, solo che hanno il vantaggio di essere sincronizzate, quindi non si stancano mai, e nello stesso tempo vanno ad una velocità circa 10 volte superiore a quella che normalmente gli umani riescono a percepire come entità in moto. Stiamo parlando di 200 immagini al secondo. Pensate che pacchia, per esempio, valutare il fuorigioco così, perché chiaramente non c'è più il problema di vedere quando parte la palla, dove si trova il giocatore, ma con questo sistema chiaramente c'è la possibilità di vedere il tutto in contemporanea, quindi margine d'errore di fatto nullo. Allora, professore, tutto bello, tutto funzionante, anni di sperimentazione, però come dicevamo all'inizio anche voi siete tra le vittime di Calciopoli, no? Come è andata a finire questa vicenda? Ma più che vittime, noi ci siamo divertiti, nel senso che abbiamo dimostrato come ricercatore che esistono, diciamo, delle tecnologie possibili per aiutare gli arbitri in tempo reale su eventi particolari che avvengono, appunto, almeno quelli certi che si possono determinare in modo scientifico sono sia quelli del gol non gol, con la precisione sicuramente che l'umano non può arrivare, e soprattutto, come diceva lei, con la stessa filosofia di telecamere intelligenti sincronizzate, anche quella, diciamo, del fuorigioco. Noi abbiamo dimostrato che questo era fattibile sia a livello di studi di fattibilità sia con la realizzazione prototipale di queste cose sperimentate. Tutti questi apparati sono montati presso lo stadio Friuli di Udine, abbiamo ripreso realmente eventi di gioco dove abbiamo dimostrato la fattibilità della situazione. Poi tutto il resto chiaramente è la politica di chi organizza queste cose, diciamo, hanno la responsabilità se utilizzarle o no. Hanno ritenuto di farne a meno, questo ci sorprende, però. Certo, anche perché appunto perché diciamo vittime di Calciopoli, perché poi lo scoppio dello scandalo ha fatto cadere in secondo piano, se non in terzo, queste vicende. Sepp Blatter, trovando anche spalla in Michel Platini, si è sempre opposto a un'applicazione razionale e ragionevole di queste situazioni tecnologiche nei campi da calcio. Sarebbe stato quantomeno opportuno, almeno per il gol non gol, ecco, che è la situazione anche scientificamente più risolvibile in modo netto, in modo chiaro. Beh, insomma, professor Arcangelo Distante, direttore dell'ISIA di Bari, grazie per essere stato ospite di A Bordo Campo e grazie anche, mi permetta la battuta, professore, almeno con questa scelta di non utilizzare questo prototipo che avete messo a punto, almeno sappiamo di che discutere lunedì la mattina al bar, altrimenti di che parlavamo? Almeno questo continuerai ad esistere. La ringrazio comunque della sua sensibilità. A Bordo Campo di Dario Ricci. Tre punti. Oggi a Bordo Campo parliamo di basket. Beh, intendiamoci, nessuna pretesa di togliere spazio e mestiere ai colleghi di Palla Spicchi, la nostra seguitissima trasmissione dedicata proprio alla pallacanestro, però c'è da analizzare un fenomeno nuovo in qualche modo legato alla Palla Spicchi, perché parliamo di basket, ma basket in piscina, uno sport, una nuova disciplina che sta prendendo piede, il water basket. Insomma, si può giocare a pallacanestro anche in piscina con un po' di fantasia. Un canestro a poco più di un metro dal pelo dell'acqua, 5 giocatori contro 5 e un piccolo campionato che però è già avuto dei riconoscimenti importanti dalla Federazione Italiana Pallacanestro, dal CONI e, come sentiremo, anche dal Comitato Italiano Sport Paralimpici. E allora andiamo subito a Firenze, dove c'è uno dei capofila di questa disciplina. Benvenuto a Bordo Campo, Vezio Ciapetti. Salve, buonasera. Allora, Vezio Ciapetti, 61 anni, è il presidente del Water Basket Firenze. Vezio, ci spieghi un po' in cosa consiste questa versione da piscina della pallacanestro? È qualche cosa che porta fuori i benefici del nuoto e la passione del nuoto con il piacere di buttare una pallacanestro, che è indiscutibilmente una cosa che prende un po' tutti chi ha frequentato palestre di basket. Ecco, come nasce questa idea? Nasce dall'intuito di un amico, di un collega che ci credette fino in fondo e pensò di dare un regolamento a questa disciplina, cioè, perché buttare la palla in un canestro in acqua, insomma, si può vedere anche film di 100 anni fa, qualcuno già lo faceva, insomma, esistono dei attrezzi ludici, galleggianti, con canestri, così. Questo qui è stato proprio creato per una disciplina nuova, una disciplina per far stare in acqua e in competizione persone di diversa, diciamo, statura, sia fisica che anche mentale, diciamo. Ecco, tra l'altro, Vezio, appunto, entriamo un po' in piscina insieme a lei e andiamo ad analizzare un po' come è organizzato questo gioco. Sappiamo la pallacanestro, quella a cui tutti siamo abituati, 5 contro 5, il tiro da 3 punti, 5 falli prima d'uscire. Ecco, cosa avete dovuto fare per adattare quello sport, quel basket, all'acqua e alla piscina? Allora, intanto abbiamo creato il campo, le dimensioni del campo, che sono di 20 metri per 15, può essere in difetto anche di 5 metri. Questo perché ovviamente abbiamo dovuto fare i conti con gli spazi acqua esistenti nella nostra realtà, quindi piscine grandissime, non ce ne sono tante, quelle da 50 metri, quindi andare sulle micro piscine dove hanno un lato di acqua fonda e si può adattare a quasi tutte. Dal campo poi siamo passati al regolamento, quindi evitare il contatto fisico come lo è il basket, evitare al massimo insomma il contatto fisico. Poi da quello lì dunque abbiamo poi lo stesso punteggio del basket. Ecco, ci rassicuri, c'è il tiro da tre punti, che quello è spettacolare. Oltre i 4 metri, linea immaginaria anziché la lunetta. Naturalmente, perché in acqua è difficile tracciare una lunetta anche immaginaria. Certo. Poi c'è i tiri liberi, sempre una disposizione sotto canestro della difesa e dell'attacco. C'è il fuorigioco. Ah, c'è il fuorigioco, quindi sì, perché quello dal calcio l'avete preso. Quello sì, quello preso dal calcio, sempre per poter mettere lì l'immaginaria. A 2 metri c'è la linea di fuorigioco, che è sempre fuorigioco, anche passivo. Quindi in modo che non si presti a interpretazioni più o meno dell'arbitro, come si sente dire, del calcio, passivo, non passivo, no. Se no lo affogate l'arbitro dopo. Abbiamo cercato regole il più possibile semplici, in modo che anche chi assiste a una partita di water basket possa capirlo, perché se lo capisce poi sicuramente lo apprezzerà di più. Ecco, una cosa interessante della disciplina che sta muovendo questi suoi primi passi, poi in realtà siete entrati in acqua già dal 2003, quindi un po' di esperienza l'avete fatta, è il fatto delle squadre miste sia per genere, quindi uomini e donne mescolati, ma anche per età, no? Non c'è un limite d'età per partecipare. Esatto, torno a confermare, cioè che avendo fatto questo regolamento in cui si leva la forza, diciamo un po' fisica, brutale, così si rispetta la fisicità dell'avversario, quindi ognuno porta fuori al meglio le proprie caratteristiche, le proprie possibilità, dalla velocità, dall'estro nel tiro, dalla tattica. Non essendo bloccato, insomma non c'è il centro boa, ma pallanuovo ovviamente lì è solamente fisico, ma non solo uomini e donne, ma addirittura anche disabili, giocano anche loro. Noi ne avevamo una squadra, ora per problemi fisici non ha potuto, ma era una disabilità alla gamba sinistra, mancava una parte, che però compensava benissimo, fra l'altro abbiamo fatto, e come è anche il regolamento, dei costumi a galleggiamento variabile, un costume intero un galleggiamento variabile, vale a dire si inserisce un galleggiante sia dorsale sia addominale a secondo del grado di disabilità, che gli compensa al momento del tiro il galleggiamento, altrimenti non potrebbe perdere il galleggiamento non usando tutti e due gli altri inferiori. Ecco. Quindi insomma è questo che anche è valso il riconoscimento da parte del Comitato Italiano Paralimpico. Infatti sì, proprio per questo qui. E anche perché appunto potendo giocare senza la prestanza estremamente di forza porta anzi, cioè la persona normodotata, a giocare insieme al disabile e viceversa, non come in altri magari settori in cui cioè, uno si deve adattare alla disabilità. Presidente, ecco, le chiedo ancora, Vezio, quanti siete in Italia? In Italia siamo ormai su diverse regioni, dal Veneto, la Lombardia, le Marche, la Toscana, Lazio e Campania. Facciamo un campionato ad 8 squadre su 2 gironi, un centro nord e un centro sud, è già in corso e avremo le finali a Firenze i primi di luglio, il 3-4 luglio se tutto va secondo calendario. Quindi ecco, giocate il vivo della stagione, qual è il periodo primaverile estivo? Primaverile e prima estate, insomma. Ecco, anche perché le dimensioni del campo, lo ricordiamo, vi permettono di sviluppare la disciplina, il water basket, anche nelle palestre, quelle piccole, diciamo così, da 25 metri, quelle dove di solito andiamo a fare la nostra nuotata per stare in forma, non serve la piscina olimpica, che se no è un problema. Esattamente. All'estero quanto è diffusa questa disciplina, questo sport? Siete in contatto con altre realtà? Sì, all'estero già dal 2003 siamo in contatto con l'Ungheria, la Slovenia e anche Croazia. Per prima fu l'Ungheria, questa è una cosa veramente curiosa. Nel 2003 appunto, quando stavamo provandolo, eravamo agli albori, Ciullini aveva fatto un sito di questo water basket alla nascita. E una squadra di Pécs, della città di Pécs, ungherese, stava cercando tramite internet dei cesti per l'immondizia. pigiando basket e cesto, gli venne fuori questo water basket, che loro già praticavano in un modo un po' diverso dal nostro. Si misero in contatto, di lì li ospitammo a Firenze, siamo andati ospiti noi in Ungheria, per 2 o 3 anni abbiamo fatto questa qui, e anche abbiamo fatto dei tornei insieme alla Slovenia, a Crani e in altre città, perché lì è molto diffuso a livello studentesco, però lo praticano in un modo molto, ancora molto, molto duro, tipo pallanuoto, con un canestro posto su un palo in mezzo all'acqua, ci gira intorno. Il nostro è il tabellone, il nostro è proprio un campo di basket. Insomma, abbiamo fatto le cose un pochino più professionali, ecco. Sì, diciamo, insomma, non per vantarsi, ma insomma abbiamo dato un profilo più da basket. Ecco, le chiedo ancora, Presidente Ciappetti, abbiamo descritto la realtà internazionale, almeno in Europa, la realtà italiana. Quali possono essere gli ulteriori sviluppi di questa disciplina? Perché, diciamo, siamo a metà strada tra uno sport che sta nascendo e quello che invece rischia di diventare un po' magari un'attività da villaggio turistico. Direi che questa seconda ipotesi è esclusa, no? No, quella è esclusa. È già ludico nel suo contesto, infatti dico io per l'età che ho, insomma ormai ho passato i 60 anni, mi posso divertire durante gli allenamenti con i ragazzi più giovani, ovviamente quelli che poi stanno facendo il campionato hanno una formazione atletica ben differente, specifica, insomma abbiamo già formato degli istruttori molto professionali, in quanto abbiamo iniziato anche una scuola per ragazzi della scuola primaria e secondaria, insomma. Quindi ecco, state formando un po' quello che sono i water basketisti del futuro. Del futuro, sì, noi ci crediamo, sicuramente, forse sentendolo così come idea, se uno non lo prova non può avere l'idea, ma se uno prova, potresti farci come ho fatto io, insomma, ecco, mi ci sono immerso fino in fondo. Ecco, ma c'è qualche bambino già che sta praticando, che avete avviato a questi corsi, come reagiscono, si divertono? Sì. Si divertono molto, su questo non abbiamo dubbi. Benissimo, allora grazie a Vezio Ciappetti, presidente del Water Basket Firenze. Che dire, ci vediamo sotto canestro in piscina allora. Grazie, quanto prima, con immenso piacere. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Filippo Aureggi in regia, vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento, come di consueto, è per domenica prossima, sempre alle 14.30. Un saluto da Dario Ricci.